Questa iniziativa è cominciata dopo confronto con le reti femministe internazionali insieme all'associazione Orlando e il MIT, Movimento Identità Trans, in cui è uscito anche un documento politico e aderito il MIT a questo documento. E da lì nasce tutto il progetto di questa carovana di solidarietà femminista e transfemminista per sostenere le donne e le persone trans in Ucraina, che al momento sono in una situazione ovviamente critica, con tutte le conseguenze di una guerra violenta, patriarcale, ecco. Quando è scoppiata la guerra abbiamo visto subito alcuni problemi che le persone trans incontravano, ad esempio per uscire dai confini perché non le facevano uscire. Esattamente, in realtà voglio sottolineare una cosa molto importante, che la situazione che subiscono le persone trans in Ucraina, la fermazione al confine, essendo che devono essere arruolate come soldati, perché comunque le chiamano al maschile purtroppo, essendo che non hanno rettificato i documenti, è una situazione non è dappertutto nuova, mi viene da citare tante situazioni simili, ad esempio le donne trans, gli uomini trans, le persone trans non binary in Siria, in Libia, in tanti altri paesi in cui la guerra non è mai si è fermata, in cui soprattutto che ha segnato alla nascita al maschile, ad esempio sono addirittura nel caso delle donne trans siriane sono rimandati indietro dal confine turco in Siria, quindi è una situazione non è dappertutto nuova, è una situazione conosciuta e riconosciuta da altra parte, anche se non viene citata, non viene sottolineata. Quindi questo è stato il problema fondamentale per le persone trans, soprattutto le donne trans ucraine, che sono state obbligate di rimanere al paese e arruolare nell'esercito a combattere, ecco. Per la carovana, che tipo di aiuti state raccogliendo? Allora, la carovana ci sono delle prime necessità di medicinale del giorno dopo, perché la violenza è un'arma patriarcale, un'arma che rappresenta il sistema maschilista patriarcale, perché la guerra è il frutto del sistema patriarcale maschilista. Quindi lo stupro e la violenza sessuale è un'arma sempre stata presente nelle guerre, quindi la pillola del giorno dopo è una necessità fondamentale, essenziale. Quindi insieme a tutto un supporto di medici, di sanitari che avranno il compito di distribuire questi medicinali, ecco, i farmaci, anche gli ormoni per le persone trans, quindi i bloccanti, quindi tutto quello che riguarda no, le donne e le persone trans, le prime necessità di farmaci e di materiale, ecco. Chi è all'ascolto, ascoltatori e ascoltatrici, possono contribuire, come possono fare? Possono fare tramite donazione al MIT direttamente o all'Associazione Orlando. Trovano tutte le informazioni sul canale social sia del MIT sia dell'Associazione Orlando, sul sito nostro del MIT e di Orlando, assolutamente. Poi come funzionerà? Una carovana partirà proprio da Bologna? Esattamente, partirà da Bologna guidata da attiviste transfemministe del MIT di Orlando, di compagne.